Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, il cammino di avvicinamento alla Pasqua è iniziato. Ormai diciamo che mancano pochi giorni a questo giorno importante. Ebbene, è un giorno in cui ci sono dei piatti particolari, pasquali. Ci sono dei dolci pasquali, mi verrebbe da dire 1, 10, 100 dolci in giro per l'Italia. Bene, ogni paesino, e lo vedremo, faremo questo lungo viaggio in giro per l'Italia, ha un qualcosa di particolare, un dolce particolare, appunto, che viene preparato a Pasqua. E non c'è un dolce principe. Mentre per il Natale il panettone trionfa, la colomba non è così forte come il panettone, non ha, per così dire, la forza di essere il numero uno. Anzi, ci sono molti altri dolci che stanno avanzando in questo paese a livello nazionale, a cominciare dalla pastiera napoletana, che ogni anno si trova sempre di più anche nelle pasticcerie del nord. Ma perché la colomba non ha la forza del panettone? E questa è una domanda che rivolgo a un produttore, diciamo un produttore indiretto, poi capiremo chi è, sia di panettone che di colomba. Ne parliamo con Nicola Boscoletto, che è presidente della cooperativa Giotto, che appunto produce nel carcere di Padova, è diventata nota, notissima per il panettone. Perché, Nicola, la colomba non ha la fortuna del panettone? Allora, innanzitutto grazie, come sempre, un saluto a te Davide e a tutti gli ascoltatori che ci volete così bene, noi siamo contenti, ma io credo che gli aspetti siano due. Uno sicuramente proprio un aspetto di tipo commerciale, cioè nel senso il Natale ha un periodo lungo ed è un periodo che è stato trasformato molto di più proprio anche da un punto di vista commerciale, no? Mentre la Pasqua è un periodo più breve e quindi diciamo meno con aspetti anche, insomma, quello che la gente spende a Natale non lo spende sicuramente a Senti, Pasqua. Senti, ma non è anche che la colomba non abbia dietro, diciamo, questo alone di leggenda che si porta il panettone? Ah, credo che questo sia l'altro aspetto, la tradizione che ha una storia ed è radicata nel tempo in maniera molto più forte nel panettone che nella colomba, che sicuramente ha aspetti di tradizione molto diversi e molto, molto più brevi, insomma. Quindi credo un po' questi due aspetti facciano un po' la differenza e quindi abbiano lasciato nella Pasqua più mano libera anche alla creatività e alla tipicità magari del luogo geografico in cui si è presenti, insomma, ecco. Poi tra l'altro la Pasqua arriva in un momento che magari per alcune zone del nord-nord siamo ancora al freddo, ma per alcune zone del sud-sud non dico che siamo quasi estate, ma poco ci manca, quindi credo che ci sono tanti fattori che hanno partecipato a questa differenziazione, insomma. Bene, però anche noi facciamo anche noi il tifo comunque anche per la colomba. A Firenze sabato, da Obican via Tornabuoni, ci sarà un evento che si chiama Vola Colomba Vola, e quindi sicuramente diamo spazio. Io non è che voglia denigrare la colomba, tutt'altro, però cioè, mi sembra appunto che manchi di quel qualcosa, di quel certo non so che, come si dice, che ha il panettone. Comunque ti ringrazio Nicola, ti ringrazio. Voi continuerete a produrre sia colomba che panettone, ovviamente, e di questo ne raccoglierete sicuramente i frutti. Ma ora devo cominciare questo giro d'Italia, e vado in Romagna a Sarsina, che è un posto molto, molto particolare, Sarsina anche dal punto di vista, se vogliamo, religioso e anche con altri aspetti molto, molto interessanti dal punto di vista storico. Andiamo alla corte di Raffaello di Sarsina, appunto, da Katia Guerrini. Katia, a Sarsina e poi anche in Romagna, in altre parti di Romagna, c'è questa tradizione della pagnotta pasquale. Ce lo spieghi cos'è? Sì, buongiorno a tutti. Assolutamente, a Sarsina e nella Valle del Savio e si festeggia ogni anno e si celebra proprio i rituali della Pasqua con la pagnotta pasquale. È un dolce che si perde nella notte dei tempi, forse già, voglio dire, alla fine dell'Ottocento, nelle famiglie contadine, per celebrare la Pasqua le donne ritualizzavano questo dolce, drammatizzavano questo dolce, e che richiedeva tutta una preparazione nell'ordine quasi del sacro, perché, come giustamente è stato detto, Sarsina ha questa, diciamo così, vocazione così fortemente religiosa, e quindi è necessario ripercorrere tutta una serie di fasi che stanno proprio nell'ordine del puro, e la Pasqua viene proprio, diciamo così, identificata, viene proprio, diciamo così, festeggiata con questo pagnotto enorme che va da un chilo fino ad arrivare a 2,5 chili, e nella sua doratura, nella sua diciamo così, ripetuta lievitazione, infatti si fanno per esempio 3 fasi di lievitazione quasi a scandire i 3 giorni della passione. Ah, la quindi c'è diciamo una, come posso dire, un'allegoria su questo della pagnotta, molto importante. Assolutamente, noi identifichiamo nella pagnotta pasquale proprio un'identità culturale, credo che sia uno di quei prodotti, di quei beni culinari, no? Per rubare una tua espressione, dei giacimenti culinari, proprio dove le persone si identificano. Io quando nella mia piccola corte, quella di Raffaello Rossi, vedo arrivare tanti pellegrini che, nonostante la pioggia, nonostante il tempo, si mettono in fila, ecco, proprio individuo questa, diciamo così, questo desiderio, questo bisogno, questo senso di appartenenza, perché è proprio, diciamo così, un dolce che risponde e risponde ad un'identità culturale, territoriale. Beh, molto bello questo, manteniamo questo tipo di tradizione. È proprio questo che dicevo, secondo me alla colomba mancano questi aspetti, sì, che danno l'identità. Si celebra il 17 marzo, il 24 marzo, da oltre 30 anni noi proprio festeggiamo la sagra di questo, della pagnotta pasquale. Addirittura, siccome noi abbiamo queste radici romane, noi abbiamo la Magna Pagnotta, questo pagnottone immenso di svariati chili che viene posto al centro della piazza, e attraverso un gioco, attraverso la goliardia e la simpatia di tutti i, diciamo così, i partecipanti, devono indovinare il peso, e quindi diventa un momento di festa, di convivialità, di coesione. E la cosa che volevo dire è questa, importante: nella drammatizzazione di questo dolce, fin da sempre, c'era un'impartizione dei ruoli, di conseguenza, perché ognuno aveva il suo compito, e quindi si creava proprio quell'ordine sociale che è giunto fino ai giorni nostri. Bene, ti ringrazio, grazie a Katia Guerrini, perché sicuramente abbiamo capito forse qual è la motivazione principale. Alla colomba manca una radice, manca una città, manca un luogo, manca un momento, anche se ovviamente è il simbolo di pace la colomba, quindi cioè, è un simbolo pasquale abbastanza importante, però gli manca questo radicamento che invece troviamo nella pagnotta pasquale romagnola, appunto di Sarsina, ma che troveremo in tanti altri prodotti che poi andremo a scoprire in giro per Italia, come vedrete, cari radioascoltatori, perché faremo veramente un itinerario e vedrete quante scoperte. Ma in Romagna voglio ricordare che a Pasqua c'è anche la zambella romagnola, e questo è un altro prodotto, diciamo, molto più dolce, che ha meno forse radicamento culturale, però che è molto diffusa e molto conosciuta sempre in Romagna. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, abbiamo ripreso il cammino in giro per l'Italia alla scoperta di questi dolci pasquali che, come ho detto, i più caratteristici si trovano in luoghi non sicuramente centrali, non in città, ma in piccoli centri. In piccoli centri, forse anche perché diciamo che hanno con i piccoli centri una tradizione, c'è diciamo un background culturale del territorio, un'identità. Mentre io torno alla colomba, la colomba purtroppo non ha un'identità, e questo mi dispiace molto, non ha una storia, non ha una leggenda. E forse questo, Claudio, il motivo per cui la colomba non ha il successo del panettone, nonostante rimanga forse il dolce più diffuso, perché è prodotto anche in larga scala. Bene, lo sto chiedendo a Claudio Gatti, che è la pasticceria Tabiano, di Tabiano Terme, noto produttore di focaccia. Buongiorno, Claudio. Buongiorno, salve Davide, buongiorno a tutti. Sì, sicuramente la colomba è stata meno pubblicizzata, è stata meno anche dai media, meno spinta, però è sempre un ottimo lievitato che per la ricorrenza di Pasqua va tantissimo. Ecco, senti, l'impasto è molto diverso, diciamo, la costruzione della colomba, a parte lo stampo che è diverso, che ha forma di colomba, è molto diverso dal panettone? No, Davide, il mio, poi parlo per il mio personale, non la chiamo nemmeno colomba, la chiamo focaccia sia a Natale che in agosto che tutto l'anno, quindi non uso questo nome perché io lo vendo tutto l'anno, quindi cambio solo le forme, il mio prodotto, per me è lo stesso prodotto, non cambia niente. Ecco, tu lo vedi, lo riscontri forse anche dalla vendita, dall'interesse delle persone, che forse perché Pasqua e non è un periodo natalizio in cui probabilmente c'è più euforia, ma c'è qualcosa, non so, non riesco. Penso più dal Pasqua al Natale sia il fatto che a Natale si usa molto più fare regali. Certo. Penso che la Pasqua sia proprio un uso familiare, non tanto si fanno meno regali, non è c'è l'usanza di fare regali come a Natale. Quindi secondo me il calo non è dato dal lievitato, che può essere più vicino, più piacere meno di più, ma proprio dato che lo comprano tutti esclusivamente per un uso familiare. Si fa pochi regali a Pasqua ormai. Senti Claudio, nel tuo territorio c'è qualche altro dolce pasquale? La Pasqua, la colomba tradizionale sicuramente sì. la fa da padrone, però no, dolci che di rilievo noi ce l'abbiamo più verso il Natale, con la spongata, con questo dolce qui, va molto di moda il tortello nella nostra vallata, però dolci particolari no. Beh, bisognerebbe legare la colomba a una storia, a una leggenda, a una tradizione, secondo me, per renderla, come posso dire, più di appeal. Sì, penso che facendolo può muovere un pochino, come hai fatto col panettone tutto l'anno, che a noi lievitisti ci ha dato veramente una mano forte d'estate, venendo tutti lievitati, producendo un prodotto lievitato appositamente per l'estate, perché l'estate chiedono un lievitato un pochino diverso, pur che il panettone tradizionale sia veramente speciale e non abbia bisogno di nessun tipo di... Però diciamo che un lievitato estivo e fare una colomba anche adesso che c'è la tendenza di usare la frutta stagionale. Io quest'anno ho fatto la colomba con i mandarini tardividi ciaculli e con l'aiuto dell'amico Strumia, che forse qualcuno sa, che mi ha trovato anche il miele dei mandarini, delle api nere, sono riuscito a fare un prodotto stagionale. Beh, insomma. Ecco, questo... penso che tutti andiamo, come i gelatai fanno il gelato con la frutta stagionale, anche noi ci avviciniamo l'estate, la primavera, fare qualche lievitato con la frutta stagionale. Grazie Claudio e buona colomba pasquale. Bene, ora andiamo a Trieste. Andiamo a Trieste perché a Trieste c'è un dolce particolare. Un dolce particolare, tra l'altro, non solo a Trieste, perché anche a Gorizia, diciamo che questo dolce viene così venduto e viene fatto a Pasqua. Però noi siamo andati a Trieste, siamo andati a parlare di pinza triestina alla pasticceria Panetteria Giudici. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno. Senta, cos'ha di caratteristico la pinza triestina? Ma la pinza triestina appunto deriva da un termine latino che si chiama pinzare, che appunto simbolicamente spiega schiacciare, ha l'aspetto di una pagnotta dorata con dei tagli caratteristici a forma di rosa, e che questo rappresenta la scalpatura del panettone, per spiegarci, e consiste in un impasto a base di burro, zucchero, e farina e miele, piuttosto più compatto del panettone, il profumato, il marsale e rum. Senta, questa forma rosa rappresenta un'allegoria per qualcosa? O invece, diciamo, perché l'impasto è molto diverso dal panettone, più compatto, e vengono fatti questi tagli caratteristici dove viene messo poi il burro all'interno e sviluppa in una maniera particolare, dando un'apertura particolare al prodotto. E simbolicamente rappresenta la spugna con cui il centurione romano diede da bere l'aceto al Cristo, no? Bene, quindi c'è un'allegoria, c'è una bellissima immagine, eccola qua, è questo che volevo, che dimostra appunto perché è stato fatto questo dolce. Senta Giudici, ma la pinza triestina, poi c'è anche vicino a voi a Gorizia fanno la pinza, ma è diversa la pinza di Gorizia? Ma la tocchi in un tasto un po' campaniristico particolare? Sinceramente non lo so, io ho sentito parlare qui in regione di un altro tipo di pinza nella parte del Pordenonese, ma non è un dolce lievitato, è un altro dolce da forno fatto in maniera diversa. Ho capito. E così. Quindi, insomma. Senta, la pinza voi la fate solamente nel periodo pasquale? No, noi la pinza la realizziamo tutto l'anno. Ho capito. È il dolce di Pasqua per eccellenza, assieme ad altri due dolci di origine triestina. Quali? Ce lo dica. Appunto, c'è il Presnitz, che sì, è un dolce arrotolato, e con questo lo troviamo anche nel Goriziano. Questa sarebbe infatti la Gubana? L'equivalente? No, la Gubana è più simile alla putizza triestina, sì, che sì, è un dolce di pasta lievitata all'esterno, con ripieno di noci, e pinoli, uvetta e cioccolato. Ecco, la putizia anche questa viene fatta durante il periodo pasquale o durante tutto l'anno? Sì, sì, sì. No, adesso sono diventati dolci tipici, li realizziamo tutto l'anno. Ho capito. Bene, pinza quindi. Pinza, ha detto putizia e ha detto un altro, un terzo. Il Presnitz. Ecco, il Presnitz ha delle particolarità rispetto agli altri due? Appunto il dolce della principessa Sissi è stato indetto un concorso a metà del 1800 per l'arrivo tra i pasticceri. È fatto a forma di spirale e appunto caratteristica la macerazione all'interno, l'uvetta viene macerata nel marsaglia rum per 5 giorni e, appunto per assorbire tutti gli aromi caratteristici, e poi con noci, cedro, pinoli, arancini e briciole di pinza triestina. Si sente la matrice austro-ungarica su questi dolci, si sente come. Io la ringrazio, Alessandro Giudici della panetteria Giudici di Trieste. Bene, da Trieste ora voliamo in Puglia e andiamo in un ristorante molto famoso che è al Fornello da Ricci a Ceglia Messapica. Andiamo da Antonella Ricci, che è la chef, una chef anche conosciuta a livello nazionale, e da lei vogliamo sapere tutto su quello che si chiama Piz Palum oppure Scarcella della Puglia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Davide, ciao. Allora, questa scarcella o Piz Palum, che mi hanno detto che in qualche area si chiama anche così, cos'è allora, Antonella? Dolce a base di una pasta frolla molto semplice, impastata con 500 g di farina, 3 uova, 100 g di zucchero, 100 g di olio extravergine d'oliva, una bustina di vanillina, un pizzico di bicarbonato per dare una lievitazione veloce e un po' di latte e sale. Quindi una pasta frolla molto, molto semplice, dove viene imprigionato in una forma che comunque varia da zona a zona, che può andare da una forma fatta a paniere oppure una forma fatta a bambolina, a ruota. Ma tutte queste forme contengono un uovo che viene imprigionato da, diciamo, una croce fatta sempre di pasta frolla. Quindi questa croce di pasta frolla, diciamo che il simbolo era quello che incarcerava quest'uovo, diciamo, in questo disco di pasta frolla. Ecco, l'uovo torna in moltissimi dolci pasquali perché è un po' il simbolo della Pasqua, perché viene anche benedetto in chiesa, quindi diciamo che c'è questa, diciamo, trasposizione dalla religione sicuramente a questi tipi di piatto. Sì, certamente, infatti poi veniva poi aperto durante la Pasqua e la Pasquetta, infatti si dice che veniva scarcerato, liberato, diciamo, e perché comunque il simbolo era quello, cioè il battesimo dell'uomo, e quindi che veniva comunque liberato dal peccato originale, quindi era quella la simbologia. Però le uova vengono imprigionate in questa croce di pasta, e spesso e volentieri un tempo quest'uovo era colorato nella cocciniglia, quindi in questo rosso, sempre il rosso, sempre per una simbologia, sempre per allontanare gli spiriti maligni, perché comunque la nostra, diciamo, le nostre tradizioni vanno di pari passo con la religione, per cui in questo caso era un simbolo, una simbologia molto forte. E comunque in varie nelle micro regioni della Puglia, perché non possiamo parlare di cucina pugliese, ma parliamo di micro cucine, certo, pugliesi, ci sono varie forme, varie tradizioni, addirittura in alcuni posti magari viene anche un po' glassato e poi vengono messi dei piccoli anessini colorati, ognuno ha la propria tradizione. Comunque tutto sommato si trova da nord a sud della Puglia, è una bellissima Bene, tradizione. Allora, tradizione pugliese. Grazie Antonella di questa bellissima spiegazione che ci hai fatto, grazie. il gastronauta. Eccoci di nuovo a camminare, correre, viaggiare per l'Italia dei dolci pasquali. Devo dire un'esclamazione, la devo fare. Che straordinario paese è il nostro, gastronomicamente, ben intendi, per intendersi. Perché guardate, ogni piatto, ogni dolce pasquale ha dei riferimenti, ha un qualcosa di allegorico, ha un qualcosa di metaforico davvero straordinario. Pensate, l'hamburger cosa c'ha? Niente. Il würstel, niente. Tanti altri piatti che oggi sono diffusi in tutto il mondo, anche dolci, sono veramente non, dietro, come si dice, dietro sotto il vestito niente. Ecco, qui sotto il piatto proprio niente, in giro per il mondo, ma anche, diciamo, anche in Europa. In Italia, sotto il piatto invece c'è tanto di cultura materiale, questa che dovremmo far conoscere, spostare per far valorizzare questi piatti straordinari. Vabbè, mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo, ma dobbiamo continuare questo viaggio. E ora andiamo nella bella Urbino, nella Ducale Urbino, andiamo da Claudio Amati e parleremo di Crescia Pasquale, vero Claudio? Buongiorno. Allora, buongiorno Davide. Si continua a fare la Crescia Pasquale in quel di Urbino? Sì, continuo, sto già lievitando nel forno. Stai lievitando? Sì, la Crescia di Pasqua, la brusca. Ecco, ce la spieghi cos'è la Crescia di Pasqua, perché è diversa dall'altra Crescia, no? Sì, la Crescia di Pasqua è tipo un panettone. Una Crescia salata, è composta da formaggi, uova, farina e si fa nel periodo pasquale. La Crescia di Pasqua era diventata un simbolo per le famiglie dell'entroterra urbinate. Guai se per Pasqua non c'era in tavola la Crescia di Pasqua. Si usava farla in varie famiglie, ogni famiglia aveva la sua ricetta. Si faceva lievitare in casa e poi si portava nel forno vicino, perché ogni via qui nella zona aveva il suo forno, c'erano 4-5 forni che ogni rio le portava le sue cresce di Pasqua a cuocere all'interno. Ma questa tradizione è rimasta, magari si porterà... Sì. Quindi sì, non più al forno, diciamo, al forno comunale, ma si porterà... Il forno comunale adesso no, adesso ognuno lo fa nel forno di casa. Appunto, stavo dicendo, ormai ognuno la fa fuori, sì, la porta fuori di casa. Senti, ed è ancora, come posso dire, è ancora tenuta questa consuetudine nella famiglia? La tradizione, cioè la crescita di Pasqua come tradizione si consumava come spuntino alla mattina di Pasqua, con i salumi, i formaggi, le uova sode, quelle benedette. Se non erro, quando si usciva di chiesa con le uova benedette si mangia in questa maniera. Sì, la coratella di agnello. L'agnello... Insomma, come antipasto non è male, devo dire. Cominciava a essere pesantino per il giorno di Pasqua. E poi tirava il bicchiere di vino. Il bicchiere di vino. Senti, tu all'angolo di vino però fai anche la crescia tutto l'anno, una crescia diversa. Sì, la crescia sfogliata. La crescia sfogliata che facciamo sulla piastra, la tipica crescia sfogliata di Urbino, questa qui, quella con lo stutto, si fa l'impasto con le uova, il latte, poi si fa questa sfoglia, si arrotola e si tira ancora col mattarello, hai capito? Bene, grazie a Claudio Amati dell'angolo di vino di Urbino. Continuiamo questo viaggio sempre più entusiasmante. Beh, mi fanno veramente piacere ascoltare questi racconti, che sono bellissimi racconti di cultura materiale. Ora andiamo a Gaeta, in provincia di Latina. Andiamo alla pasticceria Stenta, da Damiano Stenta. Perché? Perché anche Gaeta ha veramente una tradizione, ha un dolce particolare, magari poco conosciuto perché è molto locale, il tortano di Pasqua. Buongiorno Damiano. Buongiorno. Buongiorno. Ci spiega cos'è il tortano di Pasqua? Beh, non è tortano da noi. Ah, è tortano. Tortano, bene. Sì. Da voi è il tortano. Non è altro che un ciambellone, un dolce che si fa benissimo in casa. Veniva confezionato prima dalle massaie. È un dolce, diciamo, dei poveri. Si è persa un po' la tradizione. Perché è un dolce dei poveri? Perché, diciamo, gli ingredienti sono poveri? Sì, diciamo che... Due uova, farina, lo zucchero, grattatina di limone, goccino di latte, olio. E quindi... Voi lo fate ancora in pasticceria? Sì, lo facciamo nel periodo pasquale. Ma ecco, per capire, tipo plum cake? No, non è proprio un plum cake, perché il plum cake ha una base di burro molto alta. Quindi essendo povero, giustamente c'è poco. Lo chiamiamo ciambellone adesso. Senta, il tortano sarebbe, vorrebbe dire una torta, insomma, tortano sta per torta, immagino. Beh, diciamo che ha una forma di ciambella. Ho capito. Senta, fatto su uno stampo con un buco al centro. E... Ma voi continuate a farlo? Sì, continuiamo a farlo nel periodo pasquale, diciamo la settimana di Pasqua. Ecco. Non è un dolce che va molto in pasticceria, perché giustamente... diciamo che lo fanno in casa ancora qualcuno che... Ah, c'è questa tradizione di farlo ancora a casa, quindi... Sì, sì, sì, sì. Senta, quindi diceva non va molto perché da lei a Pasqua vanno altri dolci? Eh sì, perché poi ci sono altri dolci, non so, la pastiera di grano, ecco, che è un tipico... Certo, certo. Pasquale. Guardi, ne parleremo fra poco della pastiera, andremo proprio a Napoli, che è un po' la patria della pastiera, anche se questo dolce si sta estendendo in tutta Italia con grande successo. Poi, oltre alla pastiera, cosa fate? Eh beh, noi, non so, le uova di Pasqua... A parte questo ciambellone, prima la tradizione, diciamo, fatta in casa, era dell'aggiunta al ciambellone che si faceva con residuo. La massaia faceva il ciambellone, poi con quel po' di pasta che era rimasta aggiungeva un po' di farina, la rendeva un po' più dura e faceva il canestrino, faceva il galletto, faceva la donna incinta con l'uovo sulla pancia. Quindi diciamo accontentava i bambini, diciamo, no? Faceva delle allegorie, insomma, quindi per i bambini. E ora non si fa più questo, Damiano? No, questi ormai sono spariti proprio. È sparito. Bene, io la ringrazio, Damiano Stenta, pasticceria Stenta di Tortano, che fa appunto di Gaeta, che produce questa Tortano di Pasqua, e ci ha raccontato appunto che anche diventa anche un dolce di recupero. Bene, bellissima anche questa storia. Bene, continuiamo questo viaggio, ora andiamo a Napoli. Andiamo a Napoli perché Napoli è la patria della pastiera e devo dire che lo posso anche confessare, è il mio dolce preferito. Io adoro la pastiera, mi piace veramente tanto, e so anche, ora lo chiedo a Bellavia, della pasticceria Bellavia, Alessandro Bellavia, che diciamo quella autentica si mangia solo in un certo periodo dell'anno. Vero Bellavia? Buongiorno innanzitutto. Sì. Salve, sono Alessandro. Sì, Alessandro, si mangia solamente quella vera in un periodo dell'anno, quello del grano. Prevalentemente la pastiera si mangia a Pasqua. Però, come ha detto lei, insomma, la pastiera oggi è un dolce affermatissimo e diciamo noi abbiamo la fortuna di produrla tutto l'anno. Quindi anche per il turista che viene a Napoli nei mesi estivi o in altri periodi, insomma, la può trovare quasi sempre. Ovviamente il boom è il periodo pasquale. Senta, ma ha una tradizione particolare la pastiera? Cioè, certo, sì, è una tradizione antichissima. Pensi che addirittura... Si pensava, cioè che nel monastero di San Gregorio Armeno fu fatta, insomma, da un suore anonime, fu miscelata, insomma, tra grano, ricotta, insomma, fecero un primo abbozzo di pastiera. Tant'è vero che il re Ferdinando II la fece assaggiare alla moglie, la quale non rideva mai. Dopo assaggiando la pastiera, questo inizio di pastiera, insomma, questa cosa profumata, la pastiera fece sorridere la moglie e il Ferdinando II esclamò: ora devo aspettare un'altra Pasqua per potervi sorridere. Sì, ci sono tradizioni, insomma. Beh, bellissima, perché è una bella tradizione, è una tradizione anche questa. Lei ha ragione, ormai la pastiera è diventata, io lo dico, un dolce nazionale, perché molte pasticcerie anche al nord ormai fanno la pastiera. Forse non c'è quel sapore napoletano, diciamo, di gustarla nel posto di origine, però sicuramente ho mangiato delle pastiere non male. Quindi il problema, diciamo, basilare è il grano su questo sì, dolce. Sono anzitutto la scelta degli ingredienti, quindi una ricotta di pecora, grano, la cottura del grano, come vanno assemblati tutti i prodotti, come viene steso il letto di pasta frolla sul quale poi, insomma, far cuocere il prodotto, la cottura, che può variare a secondo della richiesta dell'utente finale, insomma, può essere più o meno asciutta o più, come si dice a Napoli, succosa. Insomma, deve essere bella umida umida all'interno. Ma il posto, diciamo, secondo me tradizionale per mangiare la pastiera non è altro che poi mangiarla in famiglia, quindi gli italiani insomma possono mangiarla tranquillamente e consumare la tradizione pasquale mangiando questo prodotto che insomma è straordinario. Bene, io sicuramente, guardi, a Pasqua mangerò la pastiera. La ringrazio, Alessandro Bellavia, della pasticceria Bellavia al Vomero di Napoli. Il gastronauta. Continuiamo questo viaggio pasquale tra i dolci. Ormai abbiamo girato quasi tutte le regioni. Ora andiamo in Calabria. Andiamo a Mileto, alla trattoria Il Normanno, che tra l'altro mi dicono sia famosissima tra i motociclisti. Buongiorno a Clementina Tulino. Buongiorno a lei, signor Davide. Buongiorno Clementina, io voglio sapere da lei cos'è la pizza pia. Già questo nome mi fa pensare che sia, pizza pia vuol dire che è una pizza, diciamo, come posso dire, generosa? Sì, è buona, ma non è una pizza. Ah, ecco. È un dolce che qui da noi si chiama la pia. Ah, la pia. Ecco, è un dolce che noi usiamo a fare per Pasqua. Com'è? Ce lo racconta Clementina? Allora, noi abbiamo due tipi di pie che possiamo fare per Pasqua. È la pia quella con lo zucchero, che è dolce, oppure facciamo l'altra, che noi la chiamiamo malamente perché non c'ha zucchero. Malamente? Ha detto malamente, se non erro. Malamente. diciamo, non me la dico nostra perché non ha zuccheri, contiene dell'olio in più e del vino. Quindi cambia totalmente il sapore. Certo, certo. Ecco. Però, diciamo, malamente è un modo diretto che si dice, capito? Ho capito, sì. Per dire che è una pizza di secondo piano, insomma, sì, mi sembra di capire. Sì, giusto, giusto. Okay. Ecco, perché si fa per Pasqua? Perché forse dicono che era, diciamo, quando si faceva questo dolce, a volte dal forellino che si lascia, in modo che si cucina, la marmellata che si mette dentro usciva un po' fuori e scorrendo fuori come se piangeva, e quindi c'è un dolce per Pasqua. Ah, quindi ho capito, ecco. Diciamo si abbina un po' alla religione, quindi al momento ho capito. Sì, quindi si mangerà prima di Pasqua soprattutto, anche prima di Pasqua? No, noi di solito la facciamo nella settimana santa, ecco. E durano sia la settimana santa sia la settimana dopo, perché è un dolce che si mantiene benissimo per una decina di giorni. Quindi è tradizione della zona di Mileto, vero? Proprio tradizione della vostra zona? Sì, qui a Mileto sì, tutti quanti noi facciamo questo dolce per Pasqua. Poi certamente col passare degli anni c'è chi lo fa a modo suo, lo vuole fare con altri ingredienti. Di solito noi mettiamo la marmellata d'uva, che noi la chiamiamo mostarda. Ho capito. Invece c'è persone che vogliono cambiarla e mettere altri tipi di marmellata che non ci vanno con questo dolce, capito? Perché la vera marmellata che va dentro è la mostarda d'uva. Ho capito, benissimo, benissimo. Quindi la mostarda d'uva è fondamentale come ingrediente. Quindi la pia, io la ringrazio Clementina di averci dato questa spiegazione, appunto, e nomino appunto il suo ristorante che, come dicevo, è molto noto tra i motociclisti, Trattoria Il Normanno di Mileto. Buona Pasqua anche a lei. Bene, continuiamo questo viaggio, ora torniamo a Napoli perché a Napoli c'è un'altra specialità straordinaria, oltre alla pastiera che è dolce, c'è il casatiello, ora ce lo facciamo spiegare da Gennaro Fusco, della gastronomia Fusco. Buongiorno Fusco. Buongiorno dottore. Allora, auguri allora per la prossima Pasqua. Va bene, ci spiega come fate il culatello, spieghiamo ai nostri radioascoltatori cos'è il casatiello. Il casatiello è un dolce tipico pasquale che è fatto di farina, acqua, lievito, anche se una volta in verità veniva usato lievito madre, il cosiddetto criscito. Oggi, diciamo, per praticità e per immediatezza si usa il lievito. E poi una serie di salumi e formaggi, e appunto il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, il salame e fondamentale poi il pecorino, il formaggio, e che vengono impastati insieme alla sugna e che quindi danno questo dolce tipico. Infine sul casatiello vengono messe delle uova che sono da ornamento al dolce, che poi è un dolce rustico in realtà, e che hanno anche una funzione simbolica, perché le uova, come sa, ricordano un po' la rinascita, no? Certo. Che il motivo pasquale. Ricordiamo poi infine che è anche sempre simbolico, sulle uova vengono messe delle striscette di pasta sempre di acqua e farina, perché è la pasta che usiamo per fare il casatiello, in modo orizzontale e verticale, proprio a simboleggiare la croce del Cristo, insomma. Senta Fusco, ma diciamo che uno quando io conosco anche il suo, ho mangiato anche il suo di casatiello, ma uno quando certo. ne mangia una fetta, devo dire, ha già fatto pranzo e cena. Sì, diciamo che è bello sostanzioso. Senta, ma in realtà poi il casatiello ha questa ragione, perché così fornito, perché viene dopo la Quaresima, che è un periodo di astinenza, e quindi per liberarsi, no, da questo digiuno che una volta veniva praticato in maniera molto più seria, si faceva questo rustico proprio per così lasciarsi dietro questa astinenza. Però questo sembra anche un valore simbolico, perché ricordava un po', diciamo, la passione del Cristo, perché appunto le uova, la croce sopra, certo. La forma ciambella che ricorda un certo. po' la corona, quindi anche... questa è un po' la caratteristica veramente dei vari dolci pasquali. E Fusco, io la ringrazio, grazie della spiegazione del casatiello, e continui a farlo così buono, grazie, a presto. Ora andiamo addirittura in un piccolo centro, andiamo in località Scaffa, in provincia di Frosinone, quindi nel Frusinate, da Maria Martino, le delizie di Maria si chiama il negozio, ad Arpino, per parlare di della pigna dolce, che è un dolce caratteristico di Pasqua nelle Frusinate. Buongiorno Maria. Buongiorno. Allora, com'è questa pigna dolce? Ci racconti un po'. Allora, la pigna dolce è quel dolce che le fidanzate offrivano nel periodo di Pasqua ai propri fidanzati. Ah! È un dolce antichissimo, perché risale circa al 700, e veniva fatto proprio nel periodo di Pasqua, perché è il periodo in cui le galline danno più uova, e difatti è un dolce ricco di uova. Viene lavorato con il lievito madre, nel rispetto totale della tradizione delle ricette. E è una lavorazione lunga, vorrei dire quasi come quella del panettone, e, ripeto, è ricco di uova, ci sono dentro semi di anice, frutta candita, cedro e arancia candita, cannella, vaniglia e poi un purpurrì di liquore. Senta Maria, ma perché nel periodo pasquale veniva regalato ai fidanzati? Perché proprio in quel periodo? C'è qualche leggenda su questo? Una leggenda vera e propria no, perché il periodo di Pasqua era il periodo in cui si facevano il legame veniva saltato, in pratica, perché si facevano le promesse nella Pasqua, le promesse di matrimonio. Quindi la fidanzata, poi più grande faceva la pigna, più importante era l'amore che trasportava verso il proprio futuro marito. Ma si fa ancora questo? Si fa ancora questo regalo ai fidanzati? No. In località Scaffa si fa ancora? No, a Frosinone, perché magari il numero di divorzi è cresciuto decisamente, sicuramente. Ora la pigna viene prodotta comunque, perché specialmente per Arpino e diciamo un pochino per tutto il Basso Lazio, è il prodotto proprio di rappresentanza della Pasqua. Ho capito. È un dolce proprio tipico pasquale. Bene, la sua pasticceria si chiama Le Delizie di Maria, vero, ad Arpino? Le Delizie di Maria, sì. Bene, lei fa anche altri dolci, immagino, sì. Il metodo tradizionale con il lievito madre, e poi facciamo un altro tipico dolce arpinate, che sono le uova stregate. Come sono queste uova stregate, ce lo dica? Le uova stregate è una rielaborazione che ho fatto di un'antica ricetta delle monache benedettine. In realtà dell'uovo utilizziamo solo il guscio, opportunamente sterilizzato, ed è un dolce al cucchiaio. Bene, complimenti Maria. Bene, grazie. Bene, abbiamo... Buona Pasqua a tutti. Anche a lei. Abbiamo chiuso questo stupendo giro attorno a questa Italia ricca di tradizione. Avete sentito, abbiamo sentito di tutto per i dolci pasquali. Dono ai fidanzati, ma anche sicuramente simboleggiante la religione, l'uovo, la croce. Insomma, veramente una cosa straordinaria. E allora... Io credo che avete preso appunti di questi dolci, perché sicuramente varrebbe la pena di assaggiarli tutti per Pasqua. Io ho già l'acquolina in bocca e vorrei veramente averne alcuni qui che ho sentito che mi hanno così entusiasmato. Però io vi devo lasciare con la mare in bocca, forse, perché non ho niente da offrirvi se non domani con il riposo del guerriero alle 11.30 e ogni giorno con la pillola delle 11.05. E vi auguro a tutti un bellissimo weekend. Ricordandovi, vola Colomba vola a Firenze, a Obicà, in via Tornabuoni. Buon weekend a tutti di nuovo da Davide Paolini.